Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono un consulente commerciale e vivo in una città, Schio, che è un'enclave comunista, moderata solo in facciata, in un territorio ampiamente leghista. Il clima di violenza e di contrapposizione al quale abbiamo assistito nei giorni scorsi si è sempre manifestato ogni qualvolta al governo è salita la destra. La violenza è voluta, programmata, cercata e anelata dall'estrema sinistra che, nonostante non esista più sulla carta, annovera simpatizzanti anche fra uomini politici ancora in carica, che si dicono differenti per puri motivi di interesse elettorale. Domenica sera più di qualcuno, di Pietro in testa, ha gongolato per quello che è successo, sorridendo di meraviglia e felicità, altro che solidarietà al Presidente del Consiglio. Nel 2005, in occasione del 60° anniversario dell'eccidio comunista del luglio 1945, si sono ritrovati in Duomo a Schio i familiari delle vittime, arciprete, autorità e Alessandra Mussolini. All'uscita dal Duomo il corteo avrebbe percorso circa 100 metri scarsi a piedi per andare a deporre una corona di fiori sul luogo del massacro, l'allora carcere cittadino, oggi biblioteca civica. Li stavano aspettando fuori, giovani comunisti allegri e felici e pieni di impegni sociali. C'è mancato poco che pestassero anche l'arciprete. Alessandra Mussolini deve essersela cavata grazie alla sicurezza personale. I partecipanti al corteo sono stati aggrediti a sorpresa e presi a randellate. La stampa nazionale nemmeno ha fatto menzione della cosa e lo stesso è avvenuto localmente. Tutto è stato trattato in modo molto, molto nebuloso e tralasciato prontamente. Questi personaggi non vogliono il dialogo, né lo cercano. Questi sono coloro che proteggevano le BR e che, forse, stanno proteggendo tuttora Gladio al contrario. Luca. Prevedevo già, prima di leggerle, le giustificazioni di chi accusa Berlusconi di essersela cercata. Infatti c'è chi tira fuori, modificandole e disinserendole dal contesto, le parole pronunciate da Brunetta o dallo stesso Berlusconi, dicendo che è lui che ha provocato. Se quelli come Travaglio parlano di manipolazione, perché molte TV e giornali stranieri associano l'aggressione al Nobby Day del 5 dicembre? Sono forse diventati berlusconiani? A quella manifestazione molti si erano fatti fotografare, indossando una maschera da Silvio, mentre portavano la pistola alla tempia. Certo, era goliardia, come lo sono i gruppi pro Tartaglia, e così si chiude il caso. Marco. Come si possono considerare insignificanti, folcloristiche o addirittura divertenti le dichiarazioni rilasciate da Berlusconi negli ultimi 10 anni e al contrario considerare determinanti nel costruire il clima d'odio quelle di Di Pietro, della Bindi o degli altri esponenti dell'opposizione? Chi sceglie il populismo estremo come cifra della sua espressione politica, come può poi pretendere di essere esente dagli aspetti negativi di questa deriva? La dichiarazione di Di Pietro è sicuramente eccessiva, solo perché è arrivata nel momento in cui la vittima ancora era in ospedale, e certamente i momenti difficili vanno affrontati con una comune solidarietà. Ma quanto affermato da Rosy Bindi è assolutamente materno, delicato addirittura, e condivisibile. Gianni. Come volevasi dimostrare, ma alla fine il matto è venuto fuori e ha fatto quello che tanti ipocriti auspicavano da tempo. La situazione è particolarmente grave. Non si può fare finta che sia stato solo il gesto isolato da parte di uno squilibrato. Il sentimento di odio derivante da una costante caccia all'uomo è cresciuto a dismisura grazie a dei personaggi che hanno un nome e un cognome. È inutile ignorarlo. Io sono un elettore del PDL e Berlusconi l'ho votato anche perché doveva cercare di far qualcosa per trasformare l'Italia in una repubblica presidenziale, per far rientrare la magistratura nei propri ambiti, per mettere un freno allo sfascio della pubblica amministrazione, riformare l'università, procedere con le opere pubbliche. Per me è naturale che un leader come Berlusconi si scagli contro dei poteri inamovibili dello Stato, che si sono arroccati e che non intendono perdere i loro innegabili privilegi. L'ho eletto per questo, per cambiare pagina. Gli italiani sono molto più saggi di quanto possano pensare quei politicanti che in 30 anni di Parlamento non si sono mai confrontati col paese reale, non si sono mai preoccupati di cosa ne pensasse realmente quella parte moderata del paese, cioè quella parte di popolazione che vota per e non contro. Vedere oggi tanta solidarietà espressa dagli stessi soggetti che hanno materialmente contribuito alla creazione di un clima vergognoso, teso a criminalizzare il cittadino Berlusconi, mi fa vomitare. Casini, Fini, Bersani, tutta la stampa che da mesi e mesi comunica al mondo intero che gli italiani avevano votato per un mafioso. Per non parlare della magistratura, che prima porta davanti alla Corte d'Appello un criminale pluriomicida per sputare sulla storia del paese, e poi offre la solidarietà al Premier. Michele. Se tutti quelli che prendono psicofarmaci e vanno da uno psicoterapeuta sono potenzialmente violenti, c'è da preoccuparsi. Paolo. Quando Bossi dice che ha l'esercito armato pronto per scendere in piazza, cos'è questo? Violenza o buonismo? Quando Berlusconi dice che il tavolo ai sindacalisti glielo tirerebbe in testa, è buonismo questo? Non escludo neanche Di Pietro. Ma chi crea la violenza? La crea chi la fomenta. La creano le testate giornalistiche politicizzate quando danno vita a scontri con parole violente. La creano i politici stessi quando si confrontano su argomenti non politici o quando scendono in piazza e fomentano i propri auditori con contenuti non politici. È la classe politica di tutti i colori indistintamente che crea violenza, ma alla fine è scontato che la mettano in pratica i cittadini esasperati e alle volte fuori di cranio, che sono le uniche vittime di questa situazione. Giuseppe. Quando Di Pietro chiama Berlusconi Videla o Novello Benito, e testate come Il Fatto Quotidiano parlano di regime, questa non è forse istigazione alla violenza? Pierangelo. Capuleti, Montecchi, guardate che maledizione è scesa sul vostro odio e come il cielo ha saputo servirsi dell'amore per uccidere le vostre gioie. Tutti siamo stati puniti. È Shakespeare che parla nell'ultimo atto del Romeo e Juliet. Sono un convinto elettore della sinistra, ma non è questo il modo di rispondere. Mandarlo a casa. Certo, ma con la forza della parola, non con la parola della forza. Emidio. I se, i ma e i però di queste ultime ore mi ricordano tanto quelle frasacce che si sentono dire a proposito delle donne che hanno subito violenza, e cioè che se la sono cercata. È vergognosa una certa sinistra. Max. Volevo far notare come Berlusconi, quando esce dall'auto dopo l'aggressione, è coperto alle spalle da un uomo della scorta e davanti da un pannello di protezione che è stato tenuto ben alto per proteggere il cavaliere. Credo che il mostrarsi di Berlusconi abbia salvato dal linciaggio l'aggressore, che era in mezzo a una folla di sostenitori del PDL. Giacomo. Non riesco a capire come mai tutti dicono che l'aggressore ha lanciato o scagliato l'oggetto, mentre si vede chiaramente dai filmati che l'aggressore ha colpito con forza, stringendo nella mano la statuina del Duomo di Milano. La differenza è che se avesse scagliato o lanciato avrebbe potuto colpire qualche altra persona, quindi qualcuno avrebbe potuto dire che era stato un caso. Invece Tartaglia ha colpito intenzionalmente il nostro presidente, stringendo la statuina souvenir, e si vede chiaramente dai filmati. Inoltre un testimone ha dichiarato che l'aggressore ha colpito una prima volta e poi stava cercando di colpire una seconda volta, ma è stato bloccato. Giovanni. Esprimo la mia personale solidarietà verso il Presidente del Consiglio e vorrei ricordare a qualche signore dell'opposizione che Berlusconi ad oggi rappresenta un'istituzione legittimamente eletta dalla maggioranza dei cittadini italiani. In secondo luogo è imprenditore, che con il gruppo da lui fondato sfama decine di migliaia di famiglie. Pertanto, in un paese civile quale ritengo sia l'Italia, l'opposizione andrebbe fatta nelle sedi opportune, come il Parlamento, e non per strada. La verità è una sola. I vari Di Pietro, Bindi and Company, oltre che a portarsi a casa lo stipendio, cosa hanno fatto per l'Italia? Facessero opposizione in Parlamento e non nelle piazze, e non incitassero alla violenza, in quanto siamo in una democrazia, dove c'è libertà di pensiero e di parola, ma non di lanciare oggetti contundenti. Fosse accaduta una cosa del genere a un membro dell'opposizione, sicuramente non avrebbero avuto la stessa reazione. Enrico. A seguito di recenti studi effettuati attraverso la risonanza magnetica funzionale, si è scoperta una prima cosa importantissima per capire l'efficacia del marketing e delle campagne pubblicitarie. I risultati della risonanza dimostrano che le etichette dissuasive sui pacchetti di sigarette non solo non riescono a distogliere dal fumo, ma attivando il nucleus accumbens, di fatto incoraggiano i fumatori ad accendersi una sigaretta. Non si è potuto che concludere che quelle stesse etichette di avvertimento sui pacchetti di sigarette, che dovevano distogliere dal fumo, ridurre i tumori e salvare vite, erano diventate invece un formidabile strumento di marketing per l'industria del tabacco. Spesso si cade in un'illusione ottica e ci si trae in inganno facendo troppo affidamento sulla parte razionale del nostro cervello e dimenticando il resto. Le etichette dissuasive sui lati, davanti e dietro ai pacchetti di sigarette, non hanno in realtà alcun effetto sulla voglia di fumare dei fumatori, anzi, hanno un effetto contrario. Queste scritte, attraverso l'analisi con la risonanza magnetica funzionale, vanno a stimolare una ben precisa area del cervello, detta centro del desiderio. Questa regione è una catena di neuroni specializzati che si attiva quando l'organismo desidera qualcosa. Non importa si tratti di droghe, alcol, tabacco, sesso o gioco d'azzardo. Quando è stimolato il nucleus accumbens, richiede dosi sempre più alte per essere soddisfatto. Sconvolgente è che queste ricerche siano in mano a persone di marketing. Si è capito come stimolare e indurre all'acquisto di ogni cosa. Poco importa cosa. Nessuno è immune. Basta associare il prodotto a qualcosa che stimola il nucleus accumbens. Alex. Caro direttore, lo scudo fiscale ha riportato più di 100 miliardi di euro in Italia e più di 5 miliardi nelle casse dello Stato. Un risultato indubbiamente positivo che dimostra la saggezza del ministro dell'Economia, ma che conferma anche l'esistenza di una larga quota di evasione fiscale. Ma non si potrebbe fare di più per sconfiggere questa evidente anomalia italiana? Vincenzo. Caro Vincenzo, i risultati dello scudo fiscale sono indubbiamente positivi per le casse dello Stato. In fondo, l'occasione per regolarizzare era troppo ghiotta ed economica per non approfittarne. Questo non toglie il fatto che, come tutti i condoni, anche questo scudo abbia costituito più un premio agli stessi evasori che non un passo avanti verso una più approfondita legalità fiscale. Ma l'evasione non si sconfigge per decreto o con i controlli di polizia e tantomeno si sconfigge con i condoni. C'è un problema di etica pubblica e di fiducia dei cittadini verso uno Stato che dovrebbe essere espressione degli stessi cittadini. E forse bisogna riflettere sul fatto che non solo l'Italia, ma anche Francia, Germania, Stati Uniti si sono trovati di fronte negli ultimi anni a un crescente problema di fuga di capitali all'estero verso i paradisi fiscali. In Italia la pressione fiscale reale, cioè quella che grava su chi paga totalmente le tasse, è arrivata al 55%, come ha dimostrato Luca Ricolfi nei giorni scorsi in un articolo su Panorama. Non è certo questa una giustificazione all'evasione, ma rendere un po' più equo il peso del fisco certamente aiuterebbe la trasparenza e la fiducia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.